siamo nel 2014, anno centenario di San Pio X, il Papa, il nostro Beppi, come è il titolo di questa rubrica, Beppi nostro, santo di tutti, perché è nostro Veneto, parlava Veneto anche quando era tra le mura del Vaticano, parlava dialetto e si faceva capire in modo migliore, almeno ai suoi più diretti collaboratori. Parlava, capiva, aveva studiato molto, si intendeva e si interessava di moltissime cose, come sappiamo. Da pontefice vide però le prime luci della guerra muoversi. Lui morì, come sappiamo, nella notte del 20 agosto 1914. C'erano già dei movimenti bellici in atto in Europa. In quel periodo l'Italia entrò in conflitto solamente l'anno successivo, ma la sua posizione di pontefice, appunto, gli aveva fatto percepire che c'erano purtroppo delle cattive tendenze, diciamo così, in diversi paesi dell'Europa. Chiaramente i suoi appelli, come spesso quelli dei pontefici, purtroppo rimasero inascoltati e lui non vide, appunto, gli orrori che poi ne nacquero. La Prima Guerra Mondiale fu davvero devastante, perché decimò buona parte della popolazione europea. Fu davvero terribile come conflitto, addirittura per certi versi fosse più dannosa di quello che poi avvenne ad appena 30 anni di distanza, o anche meno, con il secondo conflitto mondiale. Legato appunto alla giornata della memoria del 27 di gennaio. Pio X dunque scrisse contro la guerra, evidentemente, ma non fu ascoltato, e per sua personale fortuna, appunto, non ne vide gli orrori. Fu poi il suo successore a dover intervenire ancora più in modo più forte, ma probabilmente con la sordità dei capi delle nazioni. Di Pio X, come detto, stiamo celebrando il centenario con iniziative che già sono iniziate nei mesi scorsi e che si protrarranno anche per i prossimi mesi, evidentemente fino alla celebrazione del centenario esatto, con la Santa Messa Solenne in programma il 20 agosto alle 20:30 al Parco del Santuario delle Centrole a Riese e Pio X. Già però ci sono alcuni eventi, appuntamenti svoltisi, nello specifico ricordo il convegno internazionale di studi alla fine di ottobre fra Treviso e Venezia. Il paese natale di San Pio X, Riese, organizza con la Fondazione Giuseppe Sarto una serie di appuntamenti. In febbraio ci saranno delle serate sul tema della vita di San Pio X con gli studiosi Ruggero Ambrosi e Flavio Trentin. Sabato 8 febbraio sarà presentata la nuova edizione del volume Pio X, un Papa Veneto, a Villa Eger, sede del comune di Riese Pio X. Per quanto riguarda gli appuntamenti diocesani e ecclesiali, la diocesi di Treviso organizza per la prossima Quaresima una serie di pellegrinaggi nei luoghi di Pio X, il pomeriggio alle 15:30 con la celebrazione dei Vespri e la venerazione della reliquia. Gli appuntamenti sono il 9 marzo nella chiesa parrocchiale di Riese, il 16 a Tombolo, il 23 a Salzano, il 30 a Treviso, ovviamente poi divisi per vicariati. Poi chiaramente la visita è libera. Si inizia appunto domenica 9 marzo, prima domenica di Quaresima, con i vicariati di Castelfranco Veneto, Nervesa e Montebelluna, nella chiesa di Riese Pio X. E poi ci sono dei concerti spirituali, ve ne segnalo due all'inizio di marzo, sabato 8 nella chiesa di Riese, per voce organo, verso il XX secolo, il canto solistico sacro nel contesto europeo, e poi sabato 15 a Tombolo, canto gregoriano, improvvisazione organistica. Il canto gregoriano, l'antico canto, modello ispiratore della musica sacra, e di musica Pio X si intendeva e aveva scritto, in particolare quando era stato patriarca a Venezia. Poi via via, appunto, nel corso della Quaresima, altri concetti spirituali nei sabati precedenti i pellegrinaggi vicariali. C'è un pellegrinaggio invece diocesano della diocesi di Treviso in programma all'inizio di settembre a Roma. Da alcune settimane sono aperte le iscrizioni, vi ricordiamo la possibilità dall'8 al 10 di settembre con l'udienza del Santo Padre Papa Francesco. Il numero di telefono per le iscrizioni a questo pellegrinaggio 0422 576 882, riferimento all'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Treviso al secondo piano di Casa Toniolo. Appuntamento veneziano, perché anche a Venezia c'è un ricco calendario di iniziative per il centenario. Sabato 8 febbraio alle 17 la terza conferenza di questo ciclo di incontri alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Si parlerà di San Pio X, del suo contesto storico, evidentemente anche con riferimenti alla Prima Guerra Mondiale che citavo in apertura. Di questo specificamente parlerà il professor Georg Meyer, coordinatore dei corsi di laurea e laurea magistrale in scienze internazionali e diplomatiche dell'Università di Trieste. Verso la Prima Guerra Mondiale, il fallimento della politica di potenza in Europa al tempo di San Pio X. Interverranno anche Don Fabio Tonizzi, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Lorenzo Giustiniani. Tra Mantova e Roma, le linee pastorali del patriarca sarto, Mantova dove era stato vescovo prima di arrivare a Venezia come patriarca e da lì poi diventare pontefice. Cosa fece il patriarca sarto appunto nella diocesi di Venezia? E poi il padre religioso Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, parlerà di San Pio X nel contesto storico del primo Novecento. Sabato 8 febbraio, ma il calendario è molto ricco, quindi con questa rubrica ci risentiremo fra 7 giorni.